Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giornata festiva, dunque in assenza del giornale radio si parte per tempo con a tempo per l'appunto di sport. Dunque, congratulazioni al Napoli innanzitutto, che ha contribuito in maniera decisiva all'unplaying del calcio italiano in Champions League, perché anche l'anno scorso si erano qualificate, è bene ricordarlo, le tre italiane che erano allora Milan-Inter come quest'anno e Roma al posto del Napoli. Ma non c'è dubbio che proprio il Napoli avesse il girone più difficile dell'intero torneo, che lo abbia superato con pieno merito e che meriti complimenti, credo, graditi da parte del tecnico che lo guidò 25 anni fa, quasi 25 anni fa, al suo primo scudetto. Ben ritrovato a Ottavio Bianchi. Ciao Gigi. Senti, allora partiamo da ieri sera, che mi è sembrata una partita sofferta, di quelle in cui fai fatica a sbloccarti, eccetera, e poi diventa in discesa non appena, e quasi prevedibile non appena il risultato si sblocca. Ma mi sembrava un risultato scontato, visto il momento difficile di questa stagione del Villarreal. Però sì, sai che nel calcio se non passi il traguardo diventa sempre più difficile. Certo. Non è stata una bella partita, ma è stata una partita esaltante, perché alla fine l'entusiasmo, la motivazione, il passare il turno meritatamente in un girone apparentemente difficile, perché dall'inizio sembrava il Napoli che dovesse competere solo col Villarreal, invece ha meritato di vincere, di passare il turno battendo in casa i Manchester City e pareggiando là in una, direi proprio in una partita perfetta. La qualificazione l'hanno ottenuto a Manchester, secondo me. Sì, infatti, e credo che questo sia un dato confortante in prospettiva, correggimi se sbaglio, nel senso che è vero che si è giocato un girone, è vero che contavano i risultati di tutte le partite, ma una volta che il Villarreal ha fatto la materassa, quindi l'ha perse tutte, a decidere la qualificazione è stato, come tu hai detto, la doppia sfida, prima fuori e poi in casa con il Manchester City. Dato che adesso si va all'eliminazione diretta, mi pare che il Napoli si sia già un po' portato avanti da questo punto di vista, perché proprio si è qualificato in realtà con l'andata e ritorno col Manchester City. Ma a parte il Real Madrid e il Barcellona, mi sembra che non ci sia squadra superiore. Possono, lo stesso Barcellona e Real Madrid, giocando contro il Napoli, se il Napoli in grande condizione, come lo è perché è motivato contro queste squadre dalla prima volta in Champions League, devono essere al massimo della forma. Sì. Abbiamo visto che ieri è la sconfitta più clamorosa da quella del Manchester United. Certo. È stato eliminato non dal Manchester City o dal Napoli, ma è stato eliminato dal Basilea. E dal Benfica, che è arrivato prima. Sì. Quest'anno è stato proprio un girone eliminatori molto particolari, perché la squadra cipriota che è passata, l'Olympiakos che ha perso per pochissimo, e non diciamo di quella passaggio del turno del Lione. Che questo non te lo so dire, ma è stato molto particolare. Sì, molto particolare come minimo. Mentre il Napoli se l'è guadagnata, se l'ha meritata, e penso che al di là di quello del Real Madrid e del Barcellona sono aperte tutte, possono incontrare anche in un girone adesso nel sorteggio. Ecco, mi preoccuperei solo se, incontrando il Real Madrid e il Barcellona, lì qualche chance in meno l'hai, ma certo, il resto ha dimostrato di poter competere. Che se la può giocare, insomma, che sì, può competere con tutto e soprattutto in un'annata così, in cui ci sono tante outsider, tante sorprese, insomma. Senti, tornando brevemente a ieri sera, è però rassicurante, mi pare, che la squadra in realtà almeno non abbia mai corso rischi. Allora, è vero che Villarreal sta attraversando questo momento così difficile, è vero che insomma è sembrata davvero una squadra abbastanza modesta in questa fase, in questo momento, però è anche vero che già il poter, come dire, giocare con la serenità di controllare comunque la partita e poi lentamente di provare ad accelerare per vedere di vincerla come era indispensabile, mi è sembrato un segno di maturità, tutto sommato. Beh, guarda, squadra che sono già 2 anni che stanno giocando un buon calcio. Sì, è vero. Hanno un portiere che nei momenti decisivi fa la parata che ti risolve la partita. È un'organizzazione difensiva buona, hanno messo dentro anche dei giocatori a centrocampo importanti. I tre davanti per modo di dire, perché sono tutti giocatori che lavorano molto, portano da dietro, è una squadra ben organizzata. Pensa che io, che come tu ben sai, non capisco di calcio e sbaglio sempre i pronostici, avevo dato delle buone chance all'inizio al Napoli per il passaggio del turno e addirittura lo davo favorito con il Milan dopo le prime partite al rallentatore del campionato italiano, delle squadre cosiddette grandi, e poi il Napoli si è perso un po' per strada, però se non avesse perso dei punti decisivi contro le cosiddette piccole, sarebbe già all'altezza della Juventus o superiore. Senti, e non è a parer tuo rimediabile questa situazione di classifica adesso, in questi 2 mesi? 2 mesi è qualcosa in cui potrai dedicarsi soltanto al campionato, perché in fondo la Coppa è vero che è finita bene questa avventura così difficile, ma è vero anche che è costata in termini di punti in classifica. In tempi di punti e anche di pressione, perché per fare il doppio confronto devi essere abituato, non solo i giocatori, l'allenatore, ma un po' tutto l'ambiente. Ed è chiaro che l'importanza primaria era quella di passare il turno. Hanno tutte le possibilità, perché le altre se giocano, adesso c'è stato il cammino positivo del Milan, ma fino a poco tempo il Milan è stato battuto clamoroso in maniera molto importante dal Napoli, ha perso a Torino, la Juventus che con l'ale dell'entusiasmo in questo momento sta andando tutto bene, però il Napoli ha le possibilità, secondo me, per l'organizzazione di gioco, liberando la testa dalla Champions League, di recuperare. Certo. Tu hai fatto cenno prima a questo 7-1 del Lione fuori casa a Zagabria, tutto nel secondo tempo, dopo che erano arrivate le notizie su Ajax Real che hanno cambiato le sorti di quel girone. L'UEFA ha aperto un'inchiesta già stamattina, perché quei... Non lo so. No, te lo dico io, lo dico agli ascoltatori che scrivono per domandarlo, perché insomma... Quella è una partita che qualche sospetto non poteva non lasciarla. Avviso anche gli ascoltatori che, nonostante il giorno festivo, siamo regolarmente in diretta e quindi possono intervenire prenotandosi come sempre all'800 24 0024. Adesso però io ti sottopongo una mail arrivata in mattinata da Pasquale Giordano, perché insomma io una risposta l'avrei, vorrei sentire la tua, che in questi casi sei maestro di diplomazia. Allora dice: caro Gigi, so che Mazzarri non le è particolarmente simpatico, ma ammetterà che è stata una mossa geniale strattonare il calciatore del Villareale e farsi espellere per dare una scossa alla squadra che fino allora era contratta e incolore. Lei che ne pensa? Ripeto, la giro a un maestro di diplomazia quando vuole. Non sono in grado di darti una risposta perché arrivare al punto di farci buttare fuori per dare una scossa alla squadra penso che sia solo un'opera geniale, no? Sì, ma nel calcio, avendolo frequentato un po' di tempo, non mi sembra che ci siano delle situazioni così, non credo. Di genialità così esasperata, di intuizioni arrivare a quei punti, no, non credo. Almeno io non conosco il signor Mazzarri, ma mi vedo dagli atteggiamenti, sanguigno, in quel momento avrà visto che la squadra non, in maniera istintiva ha fatto questo, ma da lì a pensare di farsi buttare fuori per dare una scossa mi sembra un tantino esagerato. Sì, anche secondo me. Anche perché poi può essere letta al contrario, non ti chiedo un'opinione, ma rispondo a mia volta, visto che la domanda era per me, a Pasquale Giordano, e dico che si può vederla anche dall'altra parte, e cioè che dopo 50 minuti e passa di recita a bordo campo e di tensione ulteriore trasmessa alla squadra, che invece aveva bisogno soprattutto di serenità a parer mio, il fatto di essere stati liberati da quella presenza ingombrante, come dire, ha rasserenato la squadra e l'ha messa nelle condizioni migliori di esprimersi. Ma l'ho detto io e Ottavio Bianchi in questo momento non è collegato con me, vero? Vero, vero. Vero, verissimo. Io sono però, senza suscitare, poi tu sai che a me, anche se suscito un po' le cose degli altri... Non è grave. Non è grave, assolutamente. non mi toglie sicuramente il sonno. Tu sai che al di là delle capacità professionali di tutti i rappresentanti del mondo del calcio, specialmente in panchina, io per mio modo, per la mia estrazione calcistica, per come mi hanno insegnato, preferisco un comportamento alla Bagnoli, sì. Di tutto quello che ormai negli ultimi anni si è visto suscitando salti di gioia, corse in giro per il campo, frenate. Ti dirò alcuni tempi, un po' di tempo fa, non molto tempo fa, una roba del genere, già presentarti nello spogliatoio con i tuoi giocatori era una cosa che ti faceva molto che ti metteva in buona luce, ci sarebbero stati problemi anche di quel genere. Sì, poi l'ho trovata anche fuori sincrono, perché mi pare che in questi ultimissimi tempi l'Italia all'estero si stia ridando finalmente un'immagine, come dire, no? Leggermente più sobria, più credibile, più sobria, insomma, con meno... Abbiamo adesso, per quelli nuovi che ci sono, Allegri, vedo Montella, vedo Ancelotti, certo. Sono tutti allenatori che conoscono il self control di primo livello, certo. Si comportano, certo. Mourinho può fare tutto quello che vuole, però è Mourinho, insomma, se l'è guadagnato facendo quello in campo e fuori, però il resto no, sì. Io preferisco, come tu sai, il comportamento alla Rocco, alla Lidl, ma questi comportamenti, diciamo, più signorili, e di nuovo l'ho detto io. Ottavio, io chiuderei questa conversazione festiva, e quindi grazie due volte perché c'è il supplemento festivo, la chiuderei con un insomma, evidentemente un elogio, ma insomma una riflessione sulla scuola tecnica italiana, una volta di più, perché tre allenatori vanno direttamente alla guida di squadre italiane, vanno negli ottavi, un quarto, che è Spalletti, ci va alla guida dello Zenit. Nel frattempo il vecchio immarcescibile Trapattoni è arrivato alla qualificazione per gli europei con l'Irlanda, che insomma, con tutto rispetto, non è il Brasile. Mi pare che questa... Tu hai citato parte della Nouvelle Vague, mi pare però che anche sia la Nouvelle Vague che la vecchia scuola continuino a distinguersi all'estero. Ma guarda che noi siamo sottovalutati solo noi in Italia, ma quando incontrano gli stranieri, incontrano una squadra italiana, sanno perfettamente che devono dare al massimo sotto il profilo tattico, perché non sono facilmente definibili. Una squadra che parte con un assetto tattico e finisce con un assetto tattico, ripeto, alla noia, può farlo solo in questo momento il Barcellona, perché ha talmente tanti punti di riferimento di genialità che può permettersi di essere monotematico. Il resto, come nel basket, come tutti gli squadre, gli sport di squadra, se tu parti con un modulo e finisci con quell'altro, sei facilmente vulnerabile. Devi per forza cambiare. Le squadre italiane, al di là che sono maestri nel contropiede, però l'hanno adottato tutti, lo stesso Mourinho, sono in grado di cambiare. Tu prova a giocare contro una squadra italiana, se vedi che in un momento sono in difficoltà, l'allenatore non ci mette né uno né due a cambiarti, a passare dalla zona all'uomo in un determinato momento, come no? Ad attaccare il portatore di palla, ingabbiarlo, tutte cose che si fanno da 50 anni. E all'estero, ti faccio l'esempio dell'Ajax, parte da quando ha 5 anni, giocano in quella maniera, Ti ricordi un po' con l'avvento degli allenatori europei? Nella Premier League è stato cambiato l'assetto del gioco del calcio. Prima tutte palle alte nel box, nell'area, adesso cominciano a giocare rasoterra, è cominciato a cambiare in certe situazioni. Vero. Anche gli italiani, se sei in un determinato momento, butti tutti in avanti e gli ultimi minuti e fai solo, però cambiano. Sì. È molto, gli allenatori italiani erano abituati, io mi ricordo i miei vecchi maestri, ti mancava il libero, non andavano a comprare il libero. Il libero necessariamente lo dovevano adattare loro con i giocatori che avevano in rosa. Si faceva in casa. E si faceva in casa. Sì. Come si faceva in casa il terzino laterale, meno gli uomini chiave, che non potevi adattarli, ma il resto te lo dovevi arrangiare. Questo non lo dico la mia generazione, ma ancora quella precedente. Sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Questo perché lo ti porti dietro un insegnamento, una cultura, il resto giocare, io nella mia breve esperienza a livello europeo era divertentissimo giocare, quando incontravi delle difficoltà, quando incontravi una squadra italiana. Tatticamente è una scuola che non tramonta, per fortuna. No. Ottavio, grazie e buona festa. Grazie a te, ciao Gigi. Più tardi torneremo sui numeri della Coppa, della Champions League, insomma delle 16 qualificate, e su molte curiosità che si possono ricavare dall'andamento di queste 6 partite, dalle qualificate e da alcune delle eliminate. Adesso sarei curioso di sentire qualche vostro parere, anche magari volendo, sulla qualità, si fa per dire, delle telecronaca RAI, dei servizi RAI, che io personalmente trovo sempre più insopportabili, farcite come sono di retorica, di questo nazionalismo esasperato, di toni stentorei, che veramente si fa fatica, io credo, si faceva fatica ad accettare, ma insomma, invece di calare si risultano sempre più esasperati, sempre più demagogicamente ostentati. Vittorio ha chiamato da Parma. No, Vittorio è caduto nel senso della linea, e tra poco lo recuperiamo. Gabriele in linea da Salerno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, innanzitutto volevo farle i complimenti e ringraziarla per avermi fatto ascoltare Ottavio Bianchi, che mi ricorda il periodo d'oro del mio Napoli. Inoltre volevo fare una considerazione a proposito dell'economista Rai. Sempre meglio delle urla sguaiate di Pitbull quando vinceva il Milan o altre squadre italiane in Champions. L'intervento mio... Le urla di Pitbull? Pitbull era un non dotato di corde vocali, credo, rispetto ai suoi epigoni, tardi epigoni. No. Comunque... Al di là di Pizzul, volevo fare la mia considerazione sul Napoli. Mm-hmm. Io ricordo, eravamo in C 2007-2006, non ricordo bene l'anno, era proprio l'8 dicembre, e andammo a giocare una partita di Coppa Italia con la Roma. Era partita, se non vado errato, sì, andata e ritorno, e ricordo che quel Napoli... con l'entusiasmo, lo stesso entusiasmo di oggi, uno stadio pieno zeppo, ricordo quella squadra di C che si prese anche un po' troppo sul serio e ci illuse per qualche minuto di poter competere con la fortissima Roma che giocava in Serie A all'epoca. Io credo che la chiave di questo Napoli, il segreto di questo Napoli, sia proprio in quell'entusiasmo dell'ambiente e anche l'entusiasmo della squadra che ci ha portato ad arrivare a questi risultati. Cioè, credo che i risultati di oggi siano figli di quel progetto che è iniziato grazie al presidente De Laurentiis, che ci ha portato ad ottenere questi risultati, l'entusiasmo, la società sana, l'ambiente sano. Bene Gabriele, grazie del suo intervento. Se questi discorsi si sentono fare in maniera pacata, tra l'altro in toni pacati, da un tifoso è un conto, ma se tutto viene gonfiato, sottolineato, urlato, esasperato in toni stentorei da, invece da un servizio pubblico, io trovo che non ci siamo, insomma, trovo una distonia sgradevole, veramente sgradevole. Qualche numero di Franco Piantanida. Dunque, nelle 16 che vanno agli ottavi di finale saranno 5 squadre che non provengono da campionati top, e questo farà piacere a Platini. 9 nazioni in corsa, anche questo certamente è un dato positivo per l'allargamento della base ad alto livello. Ci sono 2 russe, Zenit e CSKA, una svizzera che è il Basilea, una portoghese che è Benfica, la Poel Nicosia prima del girone. L'Italia ne ha piazzate 3, esattamente come un anno fa, col Napoli al posto della Roma. Però insomma, le sorprese, i gol più o meno sono in ordine, sono in asse, ma sono in calo rispetto allo scorso anno del 7%. Lo scorso anno la media dei gironi era stata 2,85 gol a partita, quest'anno è 2,65. Poi qualche altra curiosità più tardi, magari un tantino più mirata. Certamente, dando il bentornato a Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, io ricordo che tu l'altro giorno ci hai raccontato come valigetta in spagnolo si dica maletas. Sì, le maletines. Maletines, e adesso mi tocca informarti che in francese si dice le cartables e in croato aktovke. Io ho una versione slukai, però sluzai, vabbè. Vabbè. Perché ci riassumi il perché di questa... Sì, perché c'è più di un sospetto su questa rotonda, larga, molto abbondante vittoria del Lione sulla Dinamo di Zagabria, perché si partiva da una differenza reti di più 2 per l'Ajax e di meno 4 per il Lione, quindi la qualificazione del Lione era appesa a 2 fattori: di vincere largamente contro la Dinamo Zagabria, cosa peraltro possibile visto che la Dinamo Zagabria è una delle peggiori squadre della Champions League, e contemporaneamente l'Ajax avrebbe dovuto perdere dal Real Madrid, possibilmente anche in maniera un po' abbondante. La sconfitta all'Amsterdam Arena è anche abbastanza curiosa, perché all'Ajax hanno annullato 2 gol, di cui buonissimo, uno certamente regolare, ma credo certo, anche il secondo. Il secondo non avevo una visione buona, ma credo che sia buono anche il secondo. Anche per me. Però sai, qui allargheremo un po' troppo, cioè saremo addirittura al complotto questo internazionale. Però contemporaneamente, fino al 40° minuto, a Zagabria non succedeva niente, e addirittura al 40° andava in vantaggio la Dinamo. Quindi è una cosa che rendeva il Lione, cioè diventava un Tourmalet da affrontare con un triciclo, insomma. Però quel triciclo piano piano è diventata una bici di lusso, e intanto il Lione ha pareggiato subito. E poi ha infilato una serie dopo l'altra di gol, e alla fine ha vinto 7-1. Devo dirti, visti i gol, di cui forse due in sospetto fuori gioco, sì, con uno strano occhiolino da parte di un difensore della Dinamo Zagabria nei confronti di Gomis, credo sulla linea di porta, sì, ecco, sì, visto e rivisto. Un filino di arrendevolezza da parte sia del portiere, molto lento ad andare giù su tutte le conclusioni, e anche alla difesa, insomma, di fatto al 65esimo grosso modo il Lione era già 5-6-1, poi è finita 7-1, e ovviamente adesso su tutta la stampa internazionale si parla di risultato che è molto sospetto. Sono soprattutto gli spagnoli a gettarsi in maniera abbastanza furente nei confronti dei francesi, poi il presidente del Lione Olà probabilmente sospetta sia una ritorsione rispetto alle battute fatte qualche tempo fa sulla possibilità che in Spagna il doping fosse un po' meno contrastato che altrove. La butteranno in caciara, ovviamente, sì, perché comunque di prove in questi casi ce ne saranno sempre pochissime, però che possa essere successo qualcosa di poco pulito, io ho la sensazione di sì, nel senso che mi è sembrato veramente molto, molto, troppo arrendevole una squadra che davanti al proprio pubblico si fa martirizzare in questo modo. Anche se la vera, questa diciamo che è la porcheria, la potenziale porcheria di giornata, ma la notizia di giornata certamente è l'eliminazione di Manchester, di una città intera. Ora quella del City era maturata già al turno precedente, avendo perso Napoli. Ieri è stata soltanto certificata, ma lo United finalista mi pare in 3 delle ultime 4 edizioni, se non sbaglio, e una di queste l'ha vinta. Lo United che finisce fuori come una ramazza in un girone con l'Hotelul e il Basilea è la fine, insomma. Sì, è qualcosa di epocale. Secondo me, complessivamente, visto che abbiamo passato 12 sere di Champions, si può fare un piccolo bilancio, e il bilancio è, da un punto di vista complessivo, di una competizione abbastanza sotto il livello di guardia. Noi non ci entusiasmiamo mai tantissimo per la fase a gironi, questa volta devo dire anche meno. Ci sono delle significative novità, perché a fronte di queste eliminazioni clamorose ci sono delle promozioni clamorose, perché lo avevamo già detto 2 settimane fa, il passaggio di turno dell'Apoel è un qualcosa di epocale. Io aspetterei a ridere dell'Apoel prima di averlo battuto eventualmente agli ottavi di finale. Cioè, si può ridere, ma dopo. Tenderei a ridere dopo. ci sono questi risultati un po' strambi. C'è una supremazia mostruosa da parte di Real Madrid e Barcellona solo, a parer mio, teoricamente scalfibile dal Milan, ma da un grande Milan. Per il resto mi sembra che le due spagnole possano tranquillamente fare corsa a sé, a meno che non dovessero incontrarsi nei quarti di finale, allora lì sarebbe proprio un autogol totale per la UEFA. Beh, passano le due di Londra e non le due di Manchester. Le due di Manchester, che sono le due squadre in testa al campionato inglese, che è il campionato più entusiasmante d'Europa, finiscono fuori. Quindi questo è sinceramente un dato pesante. Che potesse capitare al Manchester City ci poteva stare, perché pensavamo che anche il Villarreal potesse essere competitivo. E come no? Era un girone era un girone difficile, comunque, almeno. Come un signor girone, mentre invece ci sono stati dei gironi, gironi ridicoli, perché il girone del Manchester United era sinceramente ridicolo, come lo era quello dell'Inter. Se tu pensi che l'Inter ha vinto un girone perdendo 2 partite su 3 in casa, capisci che non c'è più una regola. Il Manchester United credo rifletterà moltissimo, perché poi in pochi giorni è uscito anche dalla Carling Cup. Io ho il sospetto che la rifondazione sia molto più complessa di quello che forse credevamo un paio di mesi fa, quando giustamente celebravamo le nozze d'argento di Alex Ferguson, insomma, che rimane sempre un grandissimo allenatore, ma che con tutta probabilità questa volta un po' lo ha sottovalutato questo girone, perché anche la partita d'andata contro il Basilea è stata una situazione abbastanza complessa, davanti 2-0, sotto 2-3, acciuffata poi al 90° il gol del 3-3, anche in casa col Benfica non riuscire a vincere. Cioè, la gestione complessiva di questo girone è stata secondo me abbastanza negativa, e non a caso il Manchester è fuori. Chiuderei con il nome di un calciatore, e cioè questo Oriol Romeu, che è una combinazione di un giocatore del Barça, però nel senso che è cresciuto lì nella cantina del Barça, è un 91 e quindi ha 20 anni, esordito l'altro anno in Liga. Da 3 partite Villas Boas lo ha inserito al posto di un certo Lampard, no? Solo di un certo Lampard, nel centrocampo del Chelsea. Beh, sono finite tutte 3-0 queste 3 partite. Sì, devo dirti che il sospetto che il Chelsea si stesse un po' rimettendo in corsa l'avevo avuto nella vittoria contro il Newcastle, che credo fosse una di quelle partite da svolta, o positiva o negativa. Quella partita lì il Chelsea l'ha vinta, e l'ha vinta bene. Per quanto riguarda il resto, leggo, mi dicono amici inglesi, che la situazione all'interno dello spogliatoio sia esplosiva, che Villas-Boas si sia praticamente preso con tutti, oltre ad avere cacciato Anelka e Alex. Però da un certo punto di vista Villas-Boas dimostra una grande personalità, e anche la voglia di affondare, cioè, se devo affondare, affondo per decisioni che ho preso io e per situazioni che ho creato io. Il fatto di Romeu è particolare, nel senso che ci sono dei senatori. Io ho sentito qualche allenatore dire in questi giorni i senatori giocano per meriti acquisiti. Ecco, io penso che i senatori debbano giocare se se lo meritano. Se invece c'è un ragazzo che merita di giocare, è giusto che giochi lui. Romeu è uno di questi esempi, ma come sono questi esempi Callejon del Real Madrid, come sono tanti giovani del Barcellona che abbiamo visto l'altra sera, che sembravano davvero quelli grandi. E allora, nel momento in cui ci sarà un calo da parte di Xavi, di Iniesta e di qualcun altro, io credo che Guardiola dovrà fare come Villas-Boas, cioè dovrà mettere quegli altri, proprio perché li ha cresciuti appositamente per il momento, non dico del trapasso, ma per il momento nel quale i grandi vecchi draghi dovranno finire a calare. Pagando, perché ha un contratto come quello di Bojan, Oriol Romeu, mi informa Franco Piantarida, e cioè È a titolo definitivo la cessione al Chelsea, ma con opzione di riacquisto. Sì, con per una cui bella Chelsea... cifra, tra l'altro, che sono una decina di milioni. Sì, il Chelsea l'ha pagato 5, il Barça lo riporta a casa un altro anno per 10 o tra due anni per 15. Sono questi nuovi, meglio, questi nuovi artifici. Prima che dopo, sì, credo. Sì, credo anch'io, a occhio per come sta andando. Sì. Fabio, grazie. A voi e buon classico sabato. Ah, ecco, buon classico sabato, 21.30, vero? 21.30 allo studio, mezz'ora di accompagnamento, 22 calcio d'inizio. 22 calcio d'inizio al Bernabeu. Sì, in assoluto le squadre più forti del mondo. Non c'è dubbio, 6 punti di vantaggio Real. Io credo sono, che sia... sono 3 in realtà, perché è una partita in più. Beh, vabbè, è una partita in però più. Però sono teoricamente 6. Teoricamente 6. Io credo che già pareggiando sarà dura rimontare Real quest'anno. Se vince, credo che... si possa. Io penso di sì, mi aspetto comunque una grande partita. Beh, ma questo Barcellona. Sì. Questo... La grande Barcellona, non neanche con un fucile puntato farei un pronostico. No, difatti. Invece i pronostici, magari prendiamo un appuntamento serio per sabato sera. Grazie ancora Fabio, a presto. Ciao. Mica vero che l'UEFA ha aperto un'inchiesta su Dinamo Zagabria e Lione. L'UEFA ha dichiarato che continua a credere nella correttezza della Champions League, che ha accertato, ecco il tipo di inchiesta che aveva avviato, su un eventuale volume anomalo di scommesse sulle partite di Zagabria, e invece non è stato riscontrato al momento nulla di anomalo. Dopodiché l'UEFA aggiunge che aspetta il referto dell'arbitro Klattenburg, e se da lì risulteranno anomalie, allora sì, verrà aperta un'inchiesta su Zagabria Leone, anche se io credo che quella, un'eventuale, non dico prova TV, ma insomma un'occhiata a quel filmato con il biondino, il difensore biondino dello Zagabria, che fa l'occhiolino a Gomis e a un altro attaccante del Lione mentre raccoglie il pallone in fondo alla rete, ed era il gol numero 5-6, qualcosa di questo genere, insomma un approfondimento di indagine potrebbe anche suggerirlo. Sembra ieri, e cioè la rubrica di Nicola Filippone, vediamo che cosa ha scovato per questo 8 dicembre. Sembra ieri. 8 dicembre 1966. Ritorno degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. L'Inter passa il turno vincendo per 2-0 in casa degli ungheresi del Vasas. Protagonista assoluto della partita di Budapest è Sandro Mazzola, che realizza una splendida doppietta. In particolare sarà ricordata la rete dell'1-0. Al 40esimo Mazzola scatta in contropiede, evita due avversari e il portiere, ma invece di tirare, incurante delle urla che Herrera gli rivolge dalla panchina, si accentra, supera un altro avversario e poi conclude con un sinistro secco nell'angolino. Un monologo straordinario, durato 12 secondi. Nel 2005 l'UEFA ha selezionato i 57 gol più spettacolari nella storia della Coppa dei Campioni e l'assolo di Mazzola contro il Vasas è stato scelto come il più bello di tutti. Beh, un riconoscimento assolutamente prestigioso, una di quelle cose che uno non dimenticherà mai, ma io credo che non solo Mazzola che l'ha segnato, ma chi l'ha visto in diretta quel gol quella sera non potrà mai dimenticare quel gol di Mazzola, perché davvero, cioè, non c'era soltanto Herrera alla panchina, ma credo che chiunque fosse seduto davanti alla TV che si domanda: ma questo quando tira? Perché si fermava e ne aspettava altri a dribblare prima poi di metterla dentro. Sono quei momenti, evidentemente, in cui sei talmente baciato dalla grazia che hai la sensazione dell'invincibilità, insomma, è un attimo perfetto che vuoi prolungare all'infinito, o comunque più di quanto non sarebbe logico, è lecito prolungarlo. Così visse Mazzola quella sera, quella straordinaria prodezza in Ungheria. Mirko ha chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Mi riallaccio al suo commento riguardo al modo di fare telecronaca da parte di molti cronisti, soprattutto sportivi, e le domando cosa pensa lei a proposito di questo cantilenare che da qualche anno si sta affermando in maniera sempre più prepotente. Io mi sono addirittura chiesto se non ci sia magari una scuola che gli insegna a parlare in quel modo, con una cantilena veramente molto monotona che appartiene poi a molti cronisti di questi ultimi, direi, 5-6 anni, non so. Ma Mirko, una scuola la escludo, perché se no, se ci fosse una scuola, Failla parlerebbe, no, come parlano le persone normali. Dico Failla per dire un caso limite, credo, no, della... Poi non è un telecronista, è nel caso di ieri sera un bordocampista. Io già che la RAI possa che una televisione possa distaccare un giornalista per fargli fare il bordocampista, cioè per seguire le panchine e descrivere quello che sta facendo un allenatore, io la trovo da tanti anni un'abiezione assoluta. Se poi è nel caso di ieri, cioè in cui c'è da sottolineare un comportamento da saltimbanco autentico, che invece andrebbe il più possibile nascosto, ma per ragioni di pubblica decenza, non per altro, la cosa mi diventa ancora più assurda. Al di là delle cantilene, io, poi ciascuno sa, ha le sue soglie di irritabilità, non dico, ma forse per un'abitudine recente ad ascoltare un altro genere di telecronaca, la sensazione, ritornando ogni tanto a Telecronache Rai, è proprio quella di un salto all'indietro dal punto di vista della qualità di tanti anni, ma nel contempo con un'amplificazione e un appunto retorica estentorea, forse per provare a stare a passo con i tempi presunti tali. Veramente il mix è assolutamente micidiale, quasi al confine dell'autolesionismo, nel senso che questo nazionalismo così esasperato ti porta quasi dopo un po' ad augurarti che non il Napoli, ma la squadra italiana perda, nel senso che almeno la piantano, la finiscono. Tale è il fastidio proprio per l'eccesso, no? di schieramento. Ha chiamato da Chieti Franco, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Dunque, volevo parlare un po' della Roma. Sì. Dunque, per me la Roma è finita subito dopo l'allontanamento di Spalletti. Cioè, io ricordo questa Roma con quello schieramento di uomini, cioè una squadra veramente perfetta. Poi non si sa perché Spalletti fu allontanato, qualche risultato non venne fuori. Cioè, da allora la Roma è veramente precipitata. Allo stato attuale si trova. Ma veramente... ascolti, momento, precipitata. L'allontanamento di Spalletti avviene, credo, alla seconda giornata di un campionato in cui poi Ranieri arriva, la Roma subentra Ranieri arriva secondo, no? La Roma e Ranieri arriva seconda, pur avendo più fatto più punti dell'Inter di Mourinho, perché mancavano appunto i punti persi da Spalletti all'inizio. Com'è che è sparita con Spalletti? Io ricordo con nostalgia, diciamo, la squadra di Spalletti, Spalletti in persona. Comunque, veniamo ai giorni nostri. Adesso, diciamo, questo famoso progetto, secondo me, non riesce a decollare dal momento che i nuovi inseriti sono tutti ragazzi giovani, giovanissimi, senza alcuna esperienza, che non hanno mai giocato insieme. Questo allenatore che propone un progetto, e per progetto io intendo qualcosa che dovrebbe andare avanti nel tempo, negli anni, e maturare. Però la tifoseria in genere non è preparata ad attendere il progetto, vuole i risultati immediati, quindi secondo me la Roma non li ha avuti e non li avrà sti risultati immediati. Per cui la figura dell'allenatore attuale già la vedo traballante e seguirà a precipitare nell'arco ancora di qualche settimana. Allo stato attuale io proporrei questo, se dipendesse da me. Questo Totti, che attualmente, diciamo, è una figura vacillante, non è né giocatore, cioè uomo di panchina, non ha rapporti ottimali con l'allenatore, con la società. Io lo vedrei proprio come uomo allenatore giocatore. Di giocatori di rango tipo Rosi, Cassetti. Vabbè, Franco, dai, che si è, insomma, il suo spazio l'ha avuto, su, e sinceramente mi è sembrato anche abbastanza ampio. Tempo scaduto, grazie a Paolo Corleoni in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.